Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. La nostra mail sottotiro@radio24.it, il mio blog Guardie o Ladri. Ovviamente mi farà piacere se scriverete nel mio blog, se commenterete, così come mi farà piacere se segnalerete tutte le iniziative antimafia o le storie, i volti, le voci di chi si oppone alle mafie in Italia, così come facciamo oggi, perché oggi in tutta Italia si svolge una cosa molto interessante, molto importante: il No Usura Day. Viene organizzato da Confesercenti con l'aiuto indispensabile, ormai annuale, pluriennale, di SOS Impresa, che si rifà ovviamente a Confesercenti. Allora, chi vive di usura fattura in Italia circa 20 miliardi di euro, un business colossale. Calcolandolo per difetto, i commercianti che vengono strozzati dagli usurai sono circa 200.000, ma mi sembra anche un calcolo fatto per difetto. Sempre più spesso l'usura è nelle mani delle grandi organizzazioni, anche mafiose, ed è per questo che oggi Confesercenti richiama nel suo manifesto in tutte le piazze d'Italia, strillerà anche questo, cioè le mani della mafia sull'usura. Io do il buongiorno a Lino Busacche, presidente di SOS Impresa. Buongiorno a lei, grazie. Grazie a lei. Ho riassunto male i termini della questione, si esprima lei come meglio crede. L'usura di oggi non è il cravattaro di quartiere, di vicolo di una ventina di anni fa, è profondamente cambiata e sta in gran parte, per un terzo, ormai nelle mani della grande criminalità organizzata. L'usura di fatto è un reato depenalizzato, consente di arricchirsi correndo pochi rischi, ma anche la crisi economica fa sì che le persone, gli imprenditori, hanno bisogno di più soldi, e le mafie sono quelli che hanno grandi contanti e grandi liquidità, e quindi diciamo fanno questo, fra virgolette, certo, servizio. Assolutamente sì, i soldi delle mafie lo sappiamo, le stime sono vengono sempre fatte in maniera, come dire, approssimativa, non potrebbe essere diversamente, ma c'è chi dice tra i 100 e i 150 miliardi di euro all'anno di fatturato. L'ultimo problema delle mafie sono i soldi, nonostante gli indubbi successi dei magistrati e delle forze dell'ordine, che sempre più spesso sequestrano e confiscano patrimoni molto ingenti, ma ahimè le ricchezze per le mafie non sono un problema. Abbiamo sentito, un terzo, diciamo, di questo fatturato di 20 miliardi di euro all'anno è ormai nelle mani delle mafie, ed è per questo che io mi ricongiungo alla storia di Roberto Battaglia, che è un imprenditore zootecnico di Cagliazzo. Ci troviamo in provincia di Caserta, che da anni resiste al racket degli usurai e della mafia. Buongiorno Battaglia. Buongiorno a lei. Battaglia è stato già nostro ospite nel passato a Radio 24, nella mia precedente trasmissione, e ci ha raccontato il suo travaglio. Ricordiamo che ha fatto anche arrestare degli esponenti del clan dei Casalesi, sono stati quantomeno arrestati all'interno delle sue proprietà, si è rivolto con speranza allo Stato. La sua è un'azienda tutto sommato che sarebbe florida se soltanto fosse completato il percorso anche di assistenza che lo Stato dovrebbe fare celermente nei confronti degli usurati. Battaglia a un certo punto si incatenò anche davanti alla prefettura di Caserta. Le chiedo: a che punto è la sua battaglia? Scusi il gioco di parole. Il punto è questo: quando mi sono incatenato si era arrivati ad un punto talmente incredibile che, nonostante il mio impegno e quindi diciamo poter far arrestare i sorsori usurai, alla fine le banche mi avevano messo in vendita all'asta tutti i miei beni, e nonostante io però avessi un mutuo approvato dal commissariato antiracket, il tribunale civile non bloccava quest'atto esecutivo e non mi dava il tempo di poter pagare le banche. E oggi com'è la situazione? Oggi la situazione è che, grazie alla grande collaborazione di alcune banche, tipo Unicredit, Banca di Roma e BNL, io sono riuscito a pagare in parte e a bloccare in parte questi atti esecutivi e quindi anche a bloccare le stesse aste, e però sono in trattativa con altre banche che, manca a farla apposta, sono proprio le banche del sud che dovrebbero supportare ed aiutare, come anche da protocollo d'intesa firmato varie volte sia con la prefettura che con il ministero, per poter definire completamente meglio, certo, questo passaggio. Assolutamente. Come lei spera in una rapida conclusione oppure prevede che sarà ancora molto travagliato? Io lo dico anche per lanciare un appello agli uomini delle istituzioni dello Stato che le sono state anche vicini. Oggi ci saranno molte testimonianze che verranno rese, ecco, diamo una mano anche noi per quel che possiamo, battaglia. Ecco, lei spera in una rapida soluzione? Io spero in una rapida soluzione, ma soprattutto per poter aiutare quegli imprenditori che ancora non hanno il coraggio di denunciare, bisogna assolutamente semplificare questa legge e soprattutto fare in modo che il Tribunale Penale collabori pienamente con il Tribunale Civile, perché non è possibile che mentre il Tribunale Penale fa gli arresti e quindi accerta che l'imprenditore che ha denunciato abbia detto la verità, a un certo punto invece il Tribunale Civile va avanti autonomamente senza alcuna sinergia tra i due. E questo è assurdo e soprattutto serve per poter, ripeto, incentivare quegli imprenditori che devono assolutamente denunciare e credere nello Stato. Bene, bene, io la interrompo qui, battaglia, perché il suo messaggio è chiarissimo. Oggi il giorno contro l'usura in tutta Italia, io ringrazio i miei ospiti ovviamente, ma vi do anche un sito, sosimpresa.it, lo potrete consultare, lo dico a tutti coloro i quali, ahimè, si trovano alle prese con questo dramma, vi prego di consultarlo, perché lì, ma altrove, come ad esempio nel sito dell'interno, quindi interno.it, potrete trovare, credo, validi aiuti per quantomeno capirne di più e anche trovare i nomi e le persone alle quali affidarvi per uscire quanto più rapidamente possibile da questa piaga. Grazie ancora a Carmelo Lauricella in regia, a Laura Faggini in studio, Roberto Carullo vi dà appuntamento a domani, parleremo di eolico e mafie. Buona giornata a tutti.